Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno, se ci ascoltate di prima mattina, buon termine di serata, come ormai ripeto sempre, volentieri, se ci ascoltate alle 20.45 in replica. Chi vi parla è Roberto Galullo, vi ricordo l'indirizzo mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate nella prima pagina del Sole 24 Ore online nello spazio Agorà. Allora, oggi prendiamo una lettera di una nostra radioascoltatrice che ci ha scritto alcuni giorni fa da San Giuliano Terme in provincia di Pisa. Una lettera che è personale, ma che in realtà rappresenta la situazione di migliaia di italiani alle prese con la difficoltà di rientrare in possesso del proprio immobile affittato, quindi un vero e proprio abuso nei confronti di chi risparmia per una vita, mette a disposizione l'alloggio e poi difficilmente riesce a rientrarne in possesso. Una situazione paradossale, se è vero come è vero che in Italia mancano le case da affittare, addirittura sappiamo che c'è un piano del governo per rinforzare l'edilizia, ci sono piani dell'opposizione, della maggioranza per rafforzare il ruolo dell'edilizia popolare, e poi ci sono studi come quello del SUNIA CGL che dicono che 150.000 famiglie sono a rischio sfratto. Insomma, sotto il tetto, accanto ai mattoni, diciamo che la situazione è tutt'altro che rosea. Allora, intanto io do il buongiorno alla signora Chiara Banchetti, che è appunto la nostra radioascoltatrice. Buongiorno Banchetti. Buongiorno. Allora, lei ha scritto una simpaticissima lettera, come è nello spirito dei toscani, e vedo che si è anche documentata moltissimo prima di scriverci. Può raccontarci sinteticamente la storia che la vede protagonista? Volentieri. Allora, io ho un bilocale arredato a Pisa, in città, e c'era dentro un inquilino che non aveva mai dato problemi. Col mese di ottobre ha smesso di pagare l'affitto ed è sparito. Allora abbiamo aspettato un mese o due perché aveva lasciato una caparra di 2 mesi e non ci preoccupavamo molto. E poi verso Natale ho detto a mio figlio: guarda un po', vai là, sarà malato, sarà disoccupato, parliamoci, no? Prima. Certo. È andato là, no, al campanello non rispondeva nessuno, è ritornato, c'è passata mia nuora, ha visto uno sconosciuto sul balcone. E hanno chiesto allora gli altri inquilini e gli hanno detto che l'inquilino nostro non c'era più da tempo, insomma da un po' di tempo, e che dentro c'erano dei nordafricani. Allora noi siamo andati a Luppi, abbiamo trovato tutto l'aiuto che potevamo desiderare, abbiamo dato lo sfratto a questo inquilino che non esiste più e dobbiamo aspettare che si svolga tutto l'iter dello sfratto. Ecco, ma che lei sappia, questa persona è stato lui a subaffittare magari l'immobile di sua proprietà, oppure perché qualcuno alle chiavi dovrà averle date a questi due nordafricani, ma il colore della... Non lo posso sapere, ecco. Potrebbero anche aver chiamato un fabbro e essere entrati, no? Ah, ecco, perché lei ovviamente non è entrata a casa sua. Io non ci sono entrata perché ho visto questa gente sul balcone, si sconosciuti, e mi hanno detto che sono nordafricani, e io ho detto a mio figlio di non entrarci assolutamente, perché quando ha preso una coltellata è un padre di famiglia. Ecco, sì, possono essere nordafricani, possono essere anche italiani, non è che cambia molto, perché i delinquenti non ci sono soltanto tra chi ha la pelle di un colore diversa, ma sono anche in mezzo a noi. Comunque la situazione è chiarissima. Un'ultima domanda, ma scusi, signora Banchetti, voi avete cercato il precedente inquilino, immagino vi abbia rilasciato un recapito. Dunque, telefonico, no, qualcosa? Non è più attivo. Ah, ho capito. Vecchi indirizzi, c'era un vecchio indirizzo, ma lui aveva preso la residenza lì in questo mini appartamento. Ho capito. Comunque con lui voi non avevate avuto mai problemi, fatto sta che di punto in bianco è sparito. Tra l'altro la lettera della signora dice una cosa abbastanza ricorrente, comune tra chi ha affitta gli immobili, vale a dire quel bilocale mi serviva poi alla fine per pagare le bollette mie, della mia famiglia, di mio figlio, insomma comunque un investimento di una vita, piccolo o grande che sia, che uno mette a disposizione della collettività. E poi queste, a volte, sempre più spesso, sono i rischi che si corrono. Allora io la interrompo qui per il momento, signora Banchetti, e passo la parola all'avvocato Giacomo Carini. Lei prima chiamava in causa Luppi, che è l'Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari, e appunto l'avvocato Giacomo Carini ne è il presidente nazionale. Buongiorno Carini. Buongiorno a loro. Allora, io suppongo che questa qui sarà una storia che voi avrete sentito e risentito, letto e riletto chissà quante volte nel vostro cammino. È la conferma di quello che vado dicendo da sempre. Molto spesso la vittima è il proprietario e non sempre la vittima è l'inquilino, perché vi sono forme di speculazioni come sono state evidenziate in questa lettera. Quindi l'amorosità, se è un dramma per l'inquilino, lo è anche per il proprietario del bene che dà in locazione, specie allorquando è l'unico appartamento che si ha, in aggiunta forse a quello che si abita personalmente, e quindi è stato acquistato come bene rifugio per far fronte ad esigenze familiari. I tempi per, anche in queste ipotesi, i tempi per liberare l'immobile sono, non dico biblici, ma insomma certamente lunghissimi. Ecco, io direi di entrarci, io un secondo avvocato un secondo, io direi di entrarci per gradi. E questa era proprio la domanda che avrei voluto farle successivamente, vale a dire ora quali sono gli iter, qual è l'iter per rientrare in possesso dell'immobile. Ma prima di chiederle questo, volevo chiederle un'altra cosa, vale a dire: c'è stata, a suo giudizio, una ingenuità da parte di questa nostra radioascoltatrice, ma la prendiamo, ripeto ancora una volta, come esempio di migliaia di persone, che ha, perché la signora ha atteso 2 mesi prima di capire che cosa stava accadendo. Detto in altri modi, se la signora a novembre si fosse subito fatta viva presso questo inquilino, che non aveva mai avuto e dato problemi, poteva forse evitare che sconosciuti entrassero poi nel suo immobile? Ma questo non lo possiamo sapere, perché non sappiamo quanto. Sì, ma come condotta generale, voglio dire, bisogna aspettare 2 mesi? È una condotta normale. È una condotta normale, ok. Chi dà in locazione un immobile spera di risolvere la questione stragiudizialmente prima di rivolgersi a un avvocato e sopportare quindi le relative spese. Quindi in genere ci si muove dopo 2, anche dopo 3-4 mesi, sperando che l'inquilino paghi spontaneamente. Certo, quindi che la soluzione venga da sé, insomma, diciamo in maniera dialettica, senza traumi dall'una o dall'altra parte. Normalissimo, ecco. Assicuro che nella maggior parte dei casi. Benissimo, no, glielo chiedo anche perché sto pagando un mutuo onerosissimo per acquistare la mia prima casa, quindi non ho esperienza di bene rifugio. L'unico rifugio è quello in cui abito, ma devo ancora alle banche anni di sacrifici. Allora, veniamo invece all'iter per rientrare in possesso della casa. Cosa deve fare adesso la signora Banchetti, ma chi come lei si trova in questa situazione? E allora, abbiamo detto che in genere ci si perde un po' di tempo, quindi passano 2-3 mesi prima di rivolgersi a un avvocato. Rivoltosi all'avvocato, l'avvocato fa un atto giudiziario che è l'intimazione di sfratto per morosità e deve stabilire un'udienza che in genere non può essere inferiore ai 30 giorni. Nel caso della signora, l'inquilino non si è opposto allo sfratto perché aveva lasciato l'appartamento. Certo. Ma normalmente avviene che l'inquilino moroso si presenti innanzi al magistrato e chiede un termine, si dice, per purgare la mora, che può essere concesso fino a 90 giorni. Ne faccia gli stessi calcoli, 3 mesi sono passati, certo, altri 90 giorni dà il magistrato. Certo, qui più che per purgare la mora, quello che viene purgata è la benevolenza e l'onestà degli italiani. Ma nel caso in cui, come qui mi pare di capire, c'è la presenza di persone che magari sono senza un regolare permesso di soggiorno o sono entrate abusivamente, l'intimazione di sfratto chi la dà, il giudice? Beh, in effetti questi sono occupanti senza titolo. Esatto. Di conseguenza l'intimazione di sfratto, quindi la convale, il provvedimento esecutivo va emanato nei confronti di colui che risulta titolare del contratto di locazione. E se non c'è più nessuno, come in questo caso, che ha un contratto di locazione? In questa ipotesi sempre bisogna fare l'iter poi tramite ufficiale giudiziario, perché non si può sfondare la porta senza la presenza dell'ufficiale giudiziario. Quindi non si può... Una volta avuto il titolo esecutivo, bisogna dare in carico all'ufficiale giudiziario di eseguire lo sfratto. Altri costi. Certo, quindi non si può nemmeno avere. E quindi bisogna arrivare con l'ufficiale giudiziario per entrare a casa propria, come in questo caso. Occorre anche la forza pubblica. Ha ragione. Forza e forza pubblica. Io la interrompo qui. Ovviamente noi torneremo su questi argomenti e tanto la ringrazio del suo intervento, avvocato Carini. Banchetti, a lei l'ultima parola. Si è rivolta all'avvocato? Sono andata a Luppi di Pisa, come avevo accennato. Certo. Ho trovato le persone gentilissime, disponibili. Abbiamo fatto la procedura di sfratto. Benissimo, io ovviamente. Però mi ha detto l'avvocato che se va bene, per non spaventarmi, potrò riavere la casa a settembre, ma ci potrebbe volere anche di più. Ecco, io non glielo auguro proprio, le auguro anzi invece di rientrare presto in possesso del suo immobile e invito tutti coloro i quali hanno interesse ad affittare gli immobili, che comunque è una cosa, per carità, una scelta sociale rilevantissima, di andarci comunque con i piedi di piombo e scegliere doverosamente l'inquilino che si mette in casa. Grazie alla signora Banchetti, in regia Filippo Aureggi, in studio a Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. We'll be right back.